Abbiamo ascoltato dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, il famosissimo brano di Gesù che si trasfigura sul monte Tabor. Come mai questo avvenimento? È perché Gesù è un grande maestro e sa che i suoi discepoli, tra poco, quando lui sarà arrestato, sarà messo in croce, saranno sottoposti a una dura prova. E allora si manifesta nella sua bellezza, nella sua santità. Si trasfigura e li incanta. Tant'è vero che Pietro dice: ma Signore, non andiamo via più, è così bello stare qui, dai che ci facciamo un riparo, qualche capannuccia, e stiamo qui con te. Io credo, cari cristiani, che come tutti i brani biblici ed evangelici, anche questo abbia un grande valore pedagogico. La Bibbia, amici, è un grande libro di vita, di insegnamento. Ci dice come dovremmo fare noi. Ci dice che prima di immergerci nella vita quotidiana, nel tourbillon, nel grande calderone della vita quotidiana, noi dobbiamo guardare in faccia la bellezza di Dio, lasciarci incantare da Lui. Mi veniva in mente quello che mi diceva mia mamma, che se fosse qui adesso avrebbe 100 anni, che quando era ragazza e andava in stabilimento, in fabbrica, facendo nei paesi chilometri e chilometri a piedi, prima andava con sua mamma tutte le mattine a messa. Ma allora c'era la messa alle 5:30 del mattino. E mi dicevo: ma come mai ancora oggi ci sono dei posti cui la messa presto ci vanno queste donne, oppure sono uomini che vengono da paesi vicini e magari vanno a messa alle 7 in una grande città dove c'è la messa prima di andare in ufficio? Perché questo? Perché sono persone che hanno capito che prima devi fare il pieno di Dio, perché poi il mondo ti prosciuga. È questo che tante volte noi non comprendiamo. Io incontro ancora oggi gente che dice: ma noi dobbiamo aiutare i poveri, ma noi dobbiamo darci da fare, noi dobbiamo costruire questo mondo. E come no? Peccato che usiamo una strategia sbagliata. Mi rifaccio a una grande maestra ancora, Madre Teresa di Calcutta, che lei, prima di mandare le sue suore a sciamare in mezzo alla povera gente, a raccogliere i rifiuti dell'umanità, tutte le mattine gli fa fare un'ora di adorazione davanti al Santissimo Sacramento. E noi non comprendiamo cos'è l'adorazione. E c'è nella loro cappella un crocifisso con scritto in inglese, io non lo so l'inglese, ho sete, in modo che la suora adora Gesù nell'Eucaristia, guarda il crocifisso e poi lascia e va a servire lo stesso Gesù che ha incontrato nell'Eucaristia. E quando un giovane dall'Inghilterra venne a trovarle e disse: madre, sono venuto a darle una mano, a fare un po' di volontariato. Ciao, benissimo, ho proprio bisogno. Guarda, comincia ad andare in chiesa a fare un'ora di preghiera. No, scusi, io sono venuto per aiutarla. E ho capito, si fa così. Amici, noi facciamo così? Ma guardate che il Vangelo è pieno di questo insegnamento. Siamo noi che andiamo avanti per le nostre strade. Noi ci diamo da fare, poi ci lamentiamo con Dio se non va come diciamo noi. Vi dice niente Maria e Marta a Betania? Marta, Marta, tu fai bene a prepararmi un bel pranzetto. Ma Maria ha scelto la parte migliore. Cari cristiani, qualcuno, perdonate se mi soffermo un po' a lungo, perché questo è un tema delicato, eh? Io sento qualcuno che ogni tanto contesta, ma sì, si prega, si fanno adorazioni, si fanno, e poi dopo i poveri, le nostre comunità non si spendono. Hai ragione, ma sai perché? Non perché si è fatta adorazione, ma perché si è fatta male l'adorazione. Non perché si va a messa, ma perché si va a messa male e non si incontra Dio. Perché se Dio entra in te nell'Eucaristia, se Dio entra in te nella sua parola, vai fuori di chiesa e hai voglia di portarlo. Ma se vai fuori di chiesa e ti metti a criticare, ti metti a sparlare, ti metti a far pettego il Gazzettino Padano prima di andare a casa, non combini niente. Ma allo stesso modo, chi si disfa per il prossimo senza andare in chiesa, non combina niente neanche loro. Perché? Perché non servono Gesù nel povero. Non vedono Gesù nel povero, non capiscono il Vangelo quando lo fai al più piccolo, l'hai fatto a me. Lo fanno perché sono portati, o perché fanno parte di organizzazioni umanitarie, o perché sono pagati per fare anche questo, l'assistenza, no? O lo fanno per buona volontà, o lo fanno per un partito, o lo fanno per tanti, ma non lo fanno per Gesù. Teniamo presenti i santi, cari amici, i santi. Madre Teresa in questo è una indicazione straordinaria. Allora chiediamo in questa santa messa della trasfigurazione che il Signore, mentre lo adoriamo, mentre lo riceviamo nell'Eucaristia, trasfiguri il nostro cuore e poi ci renda capaci, usciti di chiesa, di servire Lui nella gente, poveri ma ricchi anche, eh? C'è in giro un sacco di poveri ricchi, di poveri borghesi, di poveri benestanti, di poveri peccatori.